Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ti vedrò ancora? Io ti vedrò stanotte, nei miei sogni. No! Ken, vogliamo muoverci? Barbie, vieni con me, nella mia casa da sogno. È una follia, lo so, ci siamo appena conosciuti. Per te potrei essere uno qualunque, ma quando ti guardo mi sembra che siamo fatti l'uno per l'altra. E vai. Ken! Arrivo, l'otto! Oh. Che cosa c'è con te? L'avete individuata, lei, Barbie, qua nella sua riapparizione nel film Toy Story, in cui questo regno di giocattoli animati, parallelo al mondo degli uomini, non poteva non essere animato da tutta una serie di Barbie impegnate nelle varie professioni, dato che Barbie è declinabile comunque ovunque, in ogni espressione della femminilità, sia professionale, sia emotiva, sia ludica, sia perversa. So che probabilmente molti giudicheranno che ci sono argomenti più seri da trattare questa mattina, ma io non ne ho trovati sinceramente di più avvincenti che l'osservazione che oggi è il compleanno di Barbie. Barbie nasce il 9 marzo del 59, nessuno lo ricorda perché il giorno prima è l'8 marzo, quindi oggi sono talmente tutti saturati di parlare di femmine che ricomincerà a parlare di Barbie, che è il modello negativo della donna soltanto incline al fashion e all'apparenza, e quindi è l'antitesi di ogni emancipazione femminile, a nessuno gli va, e oggi si parla d'altro, perché siccome noi non abbiamo nemmeno accennato lontanamente alla trista ricorrenza, trista perché per me è soltanto connotata da poveri ragazzi del Bangladesh che stanno vendendo, che hanno venduto per un giorno intero mimosa tutti i semafori, questa mattina vedendo all'uscita del mio portone nei giardinetti antistanti a casa mia la panchina di pietra di Viale Mazzini in cui stavano ieri questi ragazzi a vendere mimosa tutti i semafori, c'è un mucchietto di cadaveri di mimose, quelle avanzate, perché le ultime le avranno vendute sul far della notte, poi hanno detto ormai chi le vuole più le mimose, lasciamole qua. E questa mattina le panchine di Viale Mazzini sono piene di mazzetti putrefatti di mimose. Ecco, questo è l'esito della ricorrenza che riempie di bocca tutti gli uomini, che rende felici tutte le donne. Oggi ricomincia la vita, ahimè, e oggi parliamo di Barbie. Barbie che ha la bella età di 56 anni, quindi è stata palleggiata da almeno 4-5 generazioni di donne, cioè le mie coetanee, le sessantenni, hanno giocato con Barbie. Pensate, signori, con capelli grigi, come vedete avviarsi al centro anziani per fare la partita di canasta o di baracco, che vedete meste con il carrellino della spesa andare al supermercato, o che vedete dare da mangiare ai gattini per strada, che sarebbero le mie coetanee, hanno giocato con Barbie. Giocano con Barbie ancora bimbe minchia di 4 anni che vedete imperversare, spadroneggiare in ogni luogo abitato della città. Quindi vi sarete fatto un'idea di quello che significa aver inventato la bambola Barbie. 800 24 00 24. Beh, io non mi vergogno a dire che a me Barbie piaceva tantissimo, e viceversa odiavo i bambolotti cicciottelli che pretendevano di propinarmi pretendendo che giocassi a fare la mammina. Io ricordo che quando ero bambino, più che altro, avevo il mio Big Jim e lo utilizzavo per dare un sacco di botte e di mazzate a Ken. Per noi persone, ragazze, io sono cresciuta in un paese molto povero, Barbie rappresenta un sogno che non è mai stato realizzato e non è mai stato toccato nemmeno nelle vostre mani. Vi riassumo a braccio, perché ne ho sentito parlare talmente tanto in questi decenni, non ho nemmeno avuto voglia e tempo di chiamare esperti o esperte in Barbie. Quelli sono i punti chiave della bambola Barbie. La bambola Barbie è detestabile perché fornisce alle bambine uno strumento e un modello ideale che le porta lontane da quella che è l'affermazione concreta e reale della donna. Perché? Perché è una bambolotta piena di vestiti, una bambolotta che vive in un suo mondo rosa confetto, è una bambolotta tra le gambe non c'ha niente, è chiusa. chiusa, è sigillata, è una bambolotta che c'ha un fidanzato idiota come Ken, che anche lui tra le gambe non c'è niente, è chiuso, è sigillato, e quindi è una trasposizione irreale sia della femminilità sia della capacità di relazionarsi. Però la Barbie è una sorta di istigazione all'edonismo. Le bambine: mamma, mi compri il vestitino nuovo di Barbie, mi compri la carrozzina di Barbie con cavallini, mi compri l'astronave di Barbie, mi compri il dungeon di Barbie, mi compri tutto quello di Barbie. Quindi porta le bambine a desideri smodati. Poi Barbie è reale perché Barbie non sta manco in piedi. Se Barbie fosse trasformata con una sorta di scanner umanoide in essere umano, sarebbe una pupattola che non starebbe manco in piedi. Quindi hanno pensato un po': ma questa Barbie è un brutto esempio per le ragazze, allarghiamole un po' i fianchi. Hanno fatto Barbie culona, ma nessuno se la calcola. La Barbie vera è quella lì, terribile, quella che noi conosciamo bene, perché noi abbiamo fatto di tutto le Barbie. Anche noi maschi abbiamo avuto le Barbie per le mani, erano quelle delle sorelline che le aveva, delle cuginette che erano la cosa più divina che si aveva tra le mani, e quindi si prendeva la Barbie e si faceva pezzi, si massacrava, si bruciava, tanto che c'è addirittura stata una importante e accreditata neuropsichiatra che insegna all'Università di Inghilterra di Bath, la dottoressa Agnes Nairn, mi sembra si chiami così, che ha detto che è un passaggio importante negli adolescenti, quella sorta di fase in cui si prendono le Barbie, si decapitano, smettono il forno a microonde e si tagliano i capelli a zero, si incollano di vernici, di collanti, gli si infilano chiodi, cunei dappertutto, perché è una sorta di elaborazione della fanciullezza. Voi cosa ne pensate? 800240024, tra un po' viene il bello. E qui è dove avviene la magia. Guarda questi vestiti! Non mi avevi mai portato quassù prima! Completo tennis, missione su Marte! Guarda qui, campione di Kung Fu, eroe del campus, con gagliardetti abbinati, eh? Figlio dei fiori! Oh, che... Nessuno apprezza i vestiti qui, Barbie. Nessuno. Ken, ti va di sfilare per me con qualche completo? Solo un paio. Oh, 800240024, signore, alzate un attimo gli occhi piagnucolosi dalla cipolla che state affettando. Capisco che il soffritto attende, ma datemi un ricordo tangibile, quello che ha significato per voi Barbie. Quante ne avete avuto? Dove le tenevate? Nello scatolone delle Barbie? Quando ve ne siete allontanate? È stato il menarca, il momento fatale in cui Barbie l'avete vista come un pezzo di plastica nel quale non vi identificavate più, oppure le Barbie le siete portate dietro, vi siete portate dietro nel baule del vostro corredo di nozze, le avete ritirate fuori per le vostre bambine, ancora le tenete lì ammuffite e affumicate in qualche mensolina, ogni tanto le guardate, guardate ormai quei capelli stopposi e quella plastica comincia a diventare appiccicaticcia, perché dopo tanti anni comunque c'è una mutazione biologica proprio del materiale delle Barbie. Vi sembrava che con la Barbie avete sognato e non avete più voglia di sognare. Chi sicuramente non sogna con le Barbie è Rosarita. Rosarita, buongiorno. Buongiorno Gianluca, buongiorno a tutti. Rosarita è una mia amica musicista, artista, ma colleziona Barbie. Rosarita, dimmi con dovizia di particolari, senza nulla omettere, qual è stata la Barbie che tu hai postato ieri nel tuo profilo Facebook per festeggiare finalmente la bella torta della mimosa della festa della donna? Beh, anche in questo caso sono andata fuori di retorica, sia nel contesto Barbie sia nel contesto della festa della donna. Ho postato una torta mimosa, al centro così era inserita una bambola Barbie, la torta era tagliata a metà e lasciava intravedere del liquido rosso. E in un cartello c'era confettura di fragole, di lampone. Confettura di fragole, sia il kermes, chi lo sa. E nel cartello scritto a fianco c'era un invito ad assaggiare il vero sangue mestruale di Barbie. E questo mi fa capire che esiste un lato oscuro, esiste anche il luogo del piacevole vilipendio di questa terrificante pupattola sulla quale si sono scritti poemi, si sono scervellati psichiatri e psicologi dell'età evolutiva, ma in realtà tu collezioni il disastro e la distruzione delle Barbie, le Barbie collocate nelle posizioni oscene, cosa che noi facevamo. Quante Barbie abbiamo messo a pecorina con Ken dietro, inutilmente sperando che spuntasse qualcosa che mai spuntò? Sì, in realtà io sono molto attratta dal collezionare il trash in generale. Il trash che riguarda Barbie o comunque la crudeltà verso la Barbie è una cosa che mi appassiona e mi interessa tantissimo. E c'è un movimento così molto, molto acceso nel voler rappresentare la Barbie in maniera totalmente opposta rispetto a quanto ci viene venduta. E quindi ci sono immagini di Barbie assassina, cruenta, sanguinaria e declinata in qualsiasi altro modo. Ma chi è che costruisce questi, diciamo, questi piccoli diorama, questi plastici, poi li fotografa e li mette in rete? Perché ce n'è di tutto: Barbie la mucchiata, Barbie che taglia pezzi Ken, Barbie che dalla vasca da bagno fa pezzi un'altra Barbie, diciamo il peggior sadismo che poi tutti noi abbiamo conosciuto in una certa fase della nostra vita, quando abbiamo spezzettato le Barbie, almeno disarticolate, che è il minimo che si può fare alla Barbie. Ecco, è diventata una forma quasi artistica d'espressione. Esatto, esatto. C'è addirittura a San Francisco un simposio annuale di artisti che presentano la loro opera con le Barbie alterate, quindi rappresentate in ogni modo più assurdo possibile, dalla Barbie trans alla mucchiata, al sadomaso, che va molto di moda in questo momento, come dici tu, e in ogni altra forma, diciamo, ben lontana dall'immagine secondo cui è nata. Sì, perché abbiamo passato, scusami Rosarita, un paradossale, sì, 8 marzo, in cui, esatto, tutto l'immaginario femminile era su quanto è bello essere sottomesse, fustigate e staffilate. Cioè, nessuno ha fatto caso di questa terribile incongruenza. Tutte le signore dello spettacolo, della politica, erano intervistate friccicanti come fanciulle al primo ballo per dire quanto era bello essere prese a frustate sulle natiche. E in realtà era la festa della donna, che è l'antitesi totale a ogni violenza verso le donne. Noi poveri maschi, diversamente sadici, non sappiamo veramente come essere perfettamente politicamente corretti. Certo, no, hai perfettamente ragione. Peraltro tu nell'introduzione hai detto una cosa estremamente interessante, che la Barbie è declinabile come si vuole, quindi sta a noi che la possediamo rappresentarla come desideriamo che sia. Un conto è l'aspetto commerciale, comunque come ci viene venduta, un conto è come noi la vogliamo raffigurare e rappresentare. Spero che non sia mai sottomessa. Fermo un attimo, vedo che ci sono delle telefonate in attesa, sono soltanto uomini. Li faccio parlare tra un istante, dopo l'informazione del traffico, ma vorrei dire perché siete tutti arrabbiati, perché ho riso sulle sessantenni al centro anziani. Guardate, io ho più di 60 anni, quindi ho riso su me stesso, datemi questa licenza. A tra poco. Melog. Cronache meridiane. Abito di pagliette argentate, tacchi a spillo, lunga pelliccia di ermellino con interni fucsia, trucco ammiccante, capelli lunghi e vaporosi. Che sia una Barbie non c'è alcun dubbio. La novità è che l'ultimo modello della bambola più famosa del mondo è un trans. Scalpore, è questa la parola d'ordine, con la pelle color cioccolato e i capelli arricciati accanto all'immancabile Ken, nero anche lui ovviamente, o con un magnifico caschetto rosa ed una bella t-shirt. La domanda che mi sono fatto a questa notizia, la Barbie trans, tutti contenti, certo, finalmente anche Barbie ha scavallato l'obbligo del genere, ma come si fa a vedere la Barbie trans? Perché sotto la gonna non c'era niente, quindi qual è la differenza fra la Barbie trans e la Barbie normale? O la Barbie trans finalmente è stata dotata di quello che non ha nemmeno Ken, o se no è una Barbie come un'altra, gli hanno semplicemente messo un'etichetta, dice c'è la barba un po' lunga, ah forse per quello, hanno preso la testa di un Ken barbuto e l'hanno attaccata alla Barbie, non è che hanno fatto granché. Sabrina, buongiorno. Sabrina, anzi. Sì, buongiorno. Oh, finalmente, sì. Chiamano solo uomini o uomini arrabbiati, perché parli di questa cosa, puntatona, è benissimo, guarda, ho la televisione accesa davanti, non potendo invitare Salvini, oggi alla 7 fanno vedere i tweet di Salvini, tanto così è presente. Allora, parliamo di Barbie, Sabina. Sì. Che gli facevi te alle Barbie o le Barbie? Guarda, io ricordo che ero piccolissima, nel senso che avevo di sicuro meno di 7 anni, sì, quindi ero fuori dalla fase di adolescenza. Beh, fuori è parecchio, ancora dovevi vederla, ce l'avevano passare un po' di anni, dai. Ecco, e mi dava, dopo un po' che ci giocavo, mi dava in testa vederla così sorridente. E quindi che facevi? La bendavo, perché non volevo più vedere questa. Ma poi la frustavi pure o la lasciavi bendata così? No, vabbè, non la frustavo, però magari immaginavo di averla come rapita e dicevo, ma che cavolo ridi tu, cosa ridi? Che ti ridi? Infatti sì, c'era questo riso che era un po' irritante. Sì. E quando ti sei staccata dalle Barbie? Beh, innanzitutto avevo paura di chiederle perché avevo un fratello maggiore dominante, nel senso che mi prendeva in giro come femminuccia se domandavo la Barbie. Vabbè, oddio, tale eri, purtroppo per te non lo so, ma tale eri. E in fondo sì, però poi quando l'ho avuta alla fine, diciamo che dopo è arrivato fratello più piccolo e giocavo con lui più che con la... Ah, lo costringevi a fare l'amica a prendere il tè con Barbie. Va bene, Rossella, buongiorno. Buongiorno a lei. Complimenti per la trasmissione. Io volevo semplicemente dire una cosa, non so se può essere influente o meno. Io ho l'età di Barbie. Però del 59. Sì, nelle nostre zone del nord Italia all'epoca era più diffusa la bambola, le tre bambole della furga. La Tania, come si chiamano? Sì, la Seila e l'altra. Ah. E addirittura la maestra, quando si andava a scuola, che si poteva portare una bambola, criminalizzava chi aveva queste, la bionda, la rossa, la mora, perché diceva che erano disdicevoli. Sì, erano un po' zoccole rispetto al bambolottino che gli si dava al ciucciotto. Sì, sì. Sì. Molte di noi eravamo innamorati e feci la malattia per avere quella dei capelli rossi e fu tacciata in malo modo dalla maestra che non volle che io portassi questa bambola rossa e lì seppi che le persone con i capelli rossi e tiro fuori già dalle pitture erano donne, sì, da Dante, Gabriele Rossetti erano donne dalla particolare lussuria. E così a un bambino di prima elementare venne detto, sto tanto qua, una bambina di prima elementare, e però io a casa me la tenni e non comprai mai la Barbie. Vabbè, si accontentava del Barbie Made in Italy, e c'era questa beh, il bambolotto da servire per addestrare le giovani mamme, Barbie da servire per addestrare le giovani donne in carriera o le giovani donne alla conquista. Giovanni. Sì, salve. Io niente, volevo sapere che pensava dei due Barbie e Ken in carne umana che si sono incontrati a New York, di cui uno ha fatto vari interventi, ha speso una fortuna per somigliare al famoso Ken. Niente, sì, sì, ogni tanto oggi carne umana della plastica. Sì, ma plastica, guardi, oggi permettendo, diciamo, le forme avanzate di chirurgia estetica di modellare il proprio corpo, tra i tanti modelli estetici c'è appunto una famosa signorina che è diventata come Barbie, con i piedi un pochino più abbondanti, se no non starebbe in piedi, e ci sono tanti Ken che si fanno mettere dei cuscinetti di silicone al posto della tartaruga che non c'è e somigliano a Ken. Beh, ognuno fa quello che vuole, fa parte delle possibilità di mutazione, comunque c'è una ricaduta umanoide di quello che è il modello barbesco, diciamola così. Nicolò, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Dunque io aggiungo una cosa che avevo visto in una mostra in Liguria, che era praticamente sui costumi locali delle contadine, avevano usato delle Barbie. Ah, beh. Ed erano divertenti perché c'erano, vabbè, oltre le contadine anche una Barbie vestita da camerata fascista, però tipo donna. C'è la piccola italiana. La piccola italiana, assolutamente, era divertentissima, cioè peccato per come l'avevamo fatta, perché poi era molto curata. Tutto qua è un'aggiunta alle diverse tipi, certo, di non aveva certo il fisico da massaia rurale anni 30. Assolutamente, assolutamente. Che hanno il polpaccio molto più abbondante, era un'altra cosa, però sai, sì, su Barbie sì, hanno attaccato qualunque cosa senza problemi. L'Anchorman, famoso per rimanere indifferente a tutte le provocazioni, questa volta proprio non è riuscita a sfoggiare il suo aplomb inglese, perché la follia della Burge di trasformare anche la piccola Poppy in un clone della Barbie ha superato ogni limite. La donna vive in una casa da 500.000 sterline, scrive romanzi erotici e avrebbe speso oltre 600.000 sterline per modificare il suo corpo. Non contenta, vorrebbe modellare come la famosa bambola anche sua figlia. Ma tutto questo è davvero troppo. Ecco qua è la modella che si è imbarbarita per il suo piacevole sollazzo, anche perché qualcuno parlasse di lei, se non ci sarebbe solamente altro motivo. Alessandro, buongiorno. Buongiorno Nicoletti, volevo segnarle solo una cosa, che ormai la Barbie è superata. Io ho due figlie, una di 6 anni e una di 3. Ormai si sono moltiplicate le principesse, cioè ci sono principesse dappertutto, bambole da comprare. La Barbie ormai... Sì, è il merchandising della Disney, che a un certo punto ha declinato queste principesse, sono tutte principesse, quella della Bella e la Bestia. Le bambine sono tutte principesse, si vestono tutte da principesse, è un incubo. Se a Carnevale non si vestono da principesse, non si sentono uguali alle altre. Sì, però è un ritorno alle origini. Rosarita, tu che anche tu hai sui 65 anni, ti ricordi il vestito da principessa era quello più classico, col sì, il cappello a punta, la bacchetta magica, da sempre. Assolutamente, da sempre, da sempre. E se posso fare un appunto, sì, su questo discorso delle principesse o comunque delle Barbie con, sì, un vestito molto romantico da principesse, c'è un'altra aberrazione che comunque esiste fin dagli anni 50. Stringi. Rispetto alle Barbie modificate, che sono i vestitini ad uncinetto creati per le Barbie, e lì c'è un filone pazzesco di principessume e fai da che è un totale controsenso. L'uncinetto sa di nonna e Barbie sa di nonna, ma però plastificata. Grazie Rosarita, a domani.